Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Cari ascoltatori, un saluto e un augurio pasquale a tutti voi che in questo momento siete in ascolto, a quanti stanno magari viaggiando, tornando da un viaggio per una piccola pausa, quanti sono a casa, quanti si trovano a letto per motivi di malattia o perché impossibilitati a muoversi. A tutti voi sinceramente un luminoso e caro augurio pasquale. Ecco, nella nostra trasmissione noi ci dedichiamo normalmente alla lettura continua di un testo, stiamo percorrendo insieme gli Atti degli Apostoli, ma visto il momento liturgico che stiamo vivendo, per questo lunedì desidero un attimo sospendere la nostra lettura degli Atti degli Apostoli per condividere insieme a voi il brano che la liturgia ci sta proponendo in questi due giorni, quello di Pasqua ieri e oggi quello che veniva proposto nel Vangelo del lunedì dell'Angelo. In altre parole vorrei soffermarmi insieme a voi sul capitolo 28 del Vangelo di Matteo. Mediteremo insieme i primi 15 versetti cercando di notare alcune peculiarità del racconto della risurrezione dell'Evangelista Matteo che mi sembra possano essere molto significative per il nostro modo di meditare sul mistero della risurrezione di Cristo. Ecco, suddivideremo il nostro brano in tre parti. Quanti di voi hanno la possibilità di farlo, invito a prendere un'edizione dei Vangeli, o meglio della Bibbia intera, e di aprirla proprio sul capitolo 28 del Vangelo di Matteo. Vi dicevo che divideremo il nostro brano in tre parti. La prima parte sono i primi tre versetti. Poi ci soffermeremo sulla figura delle donne nei versetti dal 4 al 10, per poi sostare infine sulla figura delle guardie, una peculiarità proprio tipica del primo Vangelo, nei versetti dall'11 al 15. Ecco, all'inizio di questa nostra conversazione chiedo allo Spirito Santo di illuminarci perché l'ascolto dell'unica parola possa scaldare i nostri cuori e rendere ancora più viva, più vera la celebrazione della nostra Pasqua. Come sapete, la nostra conversazione si suddivide sempre in due momenti: un momento in cui io sono quello che cerca in qualche modo di spezzare la parola di Dio per tutti voi, e un secondo momento dove voi entrate in scena come protagonisti, dove le vostre domande o le vostre riflessioni sono preziose per contemplare altri aspetti che magari non sono stati presi in considerazione, oppure per porre interrogativi che favoriscono poi l'approfondimento del brano. Cominciamo quindi con la prima parte del nostro brano, i primi tre versetti. Ascoltiamo cosa dice Matteo. Alla sera del sabato, al risplendere del primo giorno della settimana, Maria Maddalena e l'altra Maria andarono a vedere il sepolcro. Vi fu un grande terremoto. Un angelo del Signore, sceso dal cielo, avvicinatosi, rotolò la pietra e vi si sedette sopra. Le sue sembianze erano come folgore e il suo vestito bianco come neve. Ecco, il brano della risurrezione di Gesù nel Vangelo di Matteo inizia con questa scena. Penso che tutti voi avrete notato una caratteristica di Matteo, la caratteristica di un tempo diverso da quello che viene enunciato dagli altri evangelisti. Matteo pone l'episodio della risurrezione alla sera del sabato, al risplendere, dice il testo, del primo giorno della settimana, mentre gli altri evangelisti sembrano porre l'episodio della risurrezione all'alba del primo giorno della settimana, gli episodi nel Vangelo di Matteo iniziano alla sera del sabato. Questo è un aspetto che sul quale i padri della Chiesa si sono soffermati fin dai primi secoli, perché effettivamente rappresenta un po' un aspetto inedito nel modo di narrare di Matteo. Pensate che Girolamo, uno dei santi padri più esperti di Sacra Scrittura, in una sua lettera si sente addirittura in dovere di spiegare a coloro che si pongono qualche interrogativo in merito, spiegare la differenza che si nota, i lettori possono notare, tra la versione di Matteo e ad esempio quella di Marco. E in questa sua lettera lui dice così al suo interlocutore: tu vuoi sapere anzitutto come mai Matteo riferisce che il Signore è risorto la sera del sabato, all'alba del primo giorno della settimana, mentre Marco afferma che è risorto il mattino del giorno seguente. Questo problema lo si può risolvere in due modi, scrive Girolamo. Ti spiego. O non accettiamo questa testimonianza di Marco in quanto è riportata da rare copie del suo Vangelo, ma soprattutto per il motivo che il suo racconto sembra diverso e in contrasto con quello di Matteo, oppure dobbiamo rispondere che tutti e due hanno detto il vero, in quanto Matteo avrebbe indicato il momento in cui il Signore è risorto, cioè la sera del sabato, mentre Marco avrebbe indicato il momento in cui Maria Maddalena lo vide, e cioè il mattino del primo giorno della settimana. Come vedete, in questa lettera San Girolamo cerca un attimo di venire incontro a quello che i suoi interlocutori o i lettori del Vangelo notavano, dando una spiegazione. Non è però l'unico caso, noi sappiamo, non è l'unico caso in cui gli evangelisti non sono in perfetta sintonia tra di loro nel raccontare il loro Vangelo. E questo ancora una volta ci riporta a un criterio importante quando leggiamo i Vangeli. E quando noi leggiamo i Vangeli dobbiamo tenere presente che la resa dei fatti, la narrazione dei fatti, risponde anche a degli obiettivi teologici, cioè alla comunicazione, all'importanza da parte degli evangelisti di comunicare delle idee forti da un punto di vista teologico. Qual è l'idea forte che Matteo vuole comunicare ponendo il momento della risurrezione di Gesù nel passaggio dal sabato al primo giorno della settimana? Quello di porsi in continuità con la tradizione giudaica, con la tradizione ebraica. Nella tradizione ebraica il settimo giorno, cioè il sabato, è il momento in cui tutta la creazione si compie. Bene, quello è anche il momento in cui per Matteo la nuova creazione inaugurata dal risorto prende inizio, proprio nel passaggio tra la sera del sabato e il risplendere del primo giorno della settimana. Il fatto che la scena avvenga proprio alla fine del sabato è confermato anche dal gesto delle donne. Matteo ci dice che Maria Maddalena e l'altra Maria andarono a vedere il sepolcro. Le donne non entrano in scena in Matteo per andare a ungere il corpo di Gesù. Perché non entrano in scena per andare a ungere il corpo di Gesù? Perché questo gesto non è possibile farlo secondo la legge in giorno di sabato, era una di quelle attività che erano proibite in giorno di sabato, era invece permessa al mattino del giorno dopo. Ora, entrando in scena, ponendo in scena le donne nel momento, nella sera del sabato, quando lo Shabbat è ancora in corso, le donne vanno per vedere dove era il sepolcro, per vedere il sepolcro. Il verbo utilizzato per indicare questo vedere è il verbo teoreo, che indica appunto il vedere fisico. Ora, in questo contesto viene descritta la scena del terremoto. Vi fu un grande terremoto, un angelo del Signore sceso dal cielo, avvicinatosi, rotolò la pietra e vi si sedette sopra. Le sue sembianze erano come folgore e il suo vestito bianco come neve. Allora, notiamo nella narrazione di Matteo, in questo versetto, due aspetti importanti. Il primo è l'elemento del terremoto. Più volte durante la sua narrazione l'Evangelista Matteo ha menzionato il terremoto. Il terremoto è il segno della presenza e dell'irruzione di Dio nella storia dell'uomo. Se ricordate, al momento della morte di Gesù, dopo il grande grido che chiude l'esistenza umana di Gesù, un grande terremoto fa scattare tutta una serie di fatti che accompagnano la morte di Gesù. Il velo del Tempio che si squarcia dall'alto in basso, il terremoto che scuote la terra, le tombe che si aprono. Tutti questi segni sono il segno che in quel grido non c'è un uomo abbandonato, ma c'è l'irruzione di Dio sulla storia. Stessa cosa avviene alla fine del sabato. Il sabato della settimana della passione e morte di Gesù non è il sabato che sigilla un fallimento, ma è il sabato che inaugura la creazione nuova con l'irruzione di Dio sulla storia. E l'irruzione si manifesta in questo terremoto da un lato e nella presenza dell'angelo interprete, questo angelo che scende come la folgore, che richiama alcune tipiche narrazioni escatologiche, cioè degli ultimi tempi, e questo angelo come la folgore che entra, spezza il sepolcro perché toglie via la pietra e siede sopra come dominatore, la vita che domina, dimora, siede a potere sulla morte. Ecco questo suo sedere, questo suo stare seduto appunto sopra la pietra che è rotolata via dal sepolcro. Ora, interessante, l'angelo del Signore che aveva inaugurato tutto il percorso di Gesù è anche quello che lo chiude. Noi sappiamo che nel Vangelo di Matteo la figura dell'angelo ha un ruolo chiave all'inizio del racconto del Vangelo, perché è quello che permette ai protagonisti della scena di capire quello che devono fare. Pensiamo a tutto il Vangelo dell'infanzia, pensiamo anche al momento delle tentazioni di Gesù. Sono due momenti di inizio: l'inizio della storia della salvezza con l'incarnazione, l'inizio del ministero pubblico con le tentazioni. Ora lo troviamo alla fine di questa storia come colui che non solo spezza il gioco della morte in nome di Dio, ma anche come colui che orienta le persone presenti a farsi messaggere del nuovo inizio. Quindi Matteo racconta l'inizio della risurrezione di Gesù con queste caratteristiche che sono propriamente sue, che noi non troviamo in questo modo negli altri Vangeli. Quindi il messaggio che emerge da questi primi tre versetti è chiaro. Primo messaggio: la risurrezione di Gesù si pone in piena continuità con la storia della salvezza e dà compimento alla celebrazione, alla liturgia del sabato che il popolo di Israele ha vissuto di generazione in generazione. Ora quel sabato si colora di una meraviglia nuova, che è l'inaugurazione di quella nuova creazione che si pone a cavallo tra la sera del sabato e le prime luci del primo giorno della settimana, quello che sarà poi la domenica. In secondo luogo, il sabato diventa il luogo non solo in cui contemplare il compimento della creazione, ma contemplare l'inizio della nuova creazione, la vittoria di Dio sulla morte, la vittoria della luce sulle tenebre. Ma il sabato diventa anche il momento in cui al credente viene affidata una responsabilità, quella che l'Evangelista Matteo continuerà a sviluppare nei versetti successivi. Facciamo ora un breve stacco musicale in modo che ciascuno di voi possa rileggere questi tre versetti, dopodiché continueremo ad approfondire il nostro brano con i versetti che vanno dal 4 all'11, dove vengono messe in scena proprio le figure delle donne. Vedremo cosa l'angelo riferisce alle donne e qual è l'esperienza di queste figure. Quindi un breve stacco musicale, dopodiché continueremo con la nostra riflessione. Continuiamo con il racconto di Matteo, ascoltiamo quindi i versetti che vanno dal 4 al 10. Per la paura di lui, le guardie furono scosse e rimasero come morte. Prendendo la parola, l'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura voi, so infatti che cercate Gesù il crocifisso, non è qui, è risorto infatti, come aveva detto. Venite, guardate il luogo dove era stato deposto. Presto andate a dire ai suoi discepoli che è risorto dai morti, vi precede in Galilea e là lo vedrete. Ecco, io l'ho detto. Abbandonate in fretta la tomba con paura e gioia grande, le donne corsero a dare l'annuncio ai suoi discepoli. Gesù andò loro incontro e disse: «Saluti a voi». Essi avvicinatesi, gli abbracciarono i piedi e si prostrarono. Allora disse loro Gesù: «Non abbiate paura, andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea, là mi vedranno». Ecco, la seconda parte di questa scena, dopo aver descritto il momento dell'apertura della tomba da parte dell'angelo, pone in evidenza un primo gruppo di protagonisti, la figura delle donne. Ora, attraverso la figura delle donne, mi sembra che l'evangelista Matteo ci aiuti a capire cosa significa fare esperienza della Pasqua. E Matteo ce lo descrive attraverso i tre momenti che queste donne vivono in quel primo giorno dopo il sabato, in quel momento di passaggio tra il sabato e le prime luci della domenica. Le donne ricevono tre inviti. Il primo invito è quello di guardare il luogo del sepolcro. L'angelo si rivolge a loro dicendo: «Non abbiate paura, so che cercate il crocifisso, è risorto, non è qui, guardate il luogo dove era stato deposto». Il primo segno della risurrezione di Gesù è la tomba vuota. È necessario da parte del credente guardare il luogo dove è stato deposto Gesù. È importante da parte del credente, delle discepole, guardare la tomba. Che cos'è la tomba? La tomba è il luogo dove era stato deposto un uomo che era stato condannato a morte, un uomo che si era caricato dei peccati dell'umanità, un uomo che dal punto di vista della lettura umana delle cose aveva fallito. Ecco, il credente non deve aver paura di guardare all'interno della tomba. Le donne sono invitate a guardare all'esperienza che hanno vissuto, non rimuoverla, non aver paura di quello che è stato segnato dal sangue, dalla violenza, dalla maledizione, dal fallimento. Occorre guardare nella tomba, sapendo che ora quella tomba è stata aperta. Quella tomba ora è vuota. Il primo segno, la prima prova della risurrezione è la tomba vuota. Però come prova, come segno, da sola non basta. Uno potrebbe fare anche una lettura sbagliata della tomba vuota, e noi sappiamo che questo succede. Il caso di Maria di Magdala, così come viene narrato nel quarto Vangelo, è una prova concreta di come il credente possa interpretare male il segno della tomba vuota. Hanno portato via il mio Signore e non so dove lo hanno posto, dice Maria di Magdala nel quarto Vangelo, quando nessuno ha portato via il Signore, nessuno l'ha portato via. Però lei vede la tomba vuota, non si china, non entra in quella tomba e dà una sua lettura delle cose, fraintendendo le cose e diventando al posto di una evangelista una disangelista, perché porta una cattiva notizia ai suoi. Ora qui le donne, primo segno, guardate il luogo dove era stato deposto. Seconda esperienza che le donne fanno è l'esperienza dell'incontro con il risorto, che prima è rappresentato dall'angelo che come folgore si è presentato sulla scena e che ha suscitato in loro paura e timore grande, ma subito dopo viene loro incontro nella figura stessa di Gesù. Il testo dice che, abbandonata in fretta la tomba con paura e gioia grande, le donne corsero a dare l'annuncio ai suoi discepoli, ma Gesù andò loro incontro e disse: salute a voi. Gesù precede i suoi. Gesù precede sempre. Quindi la seconda esperienza che le donne sono chiamate a fare, il secondo sguardo che le donne sono chiamate a porre, è lo sguardo sul Cristo vivo, su un Cristo che le precede, che come dire, non aspetta che noi lo raggiungiamo, non aspetta che noi gli corriamo incontro, ma è Lui che viene incontro a noi nel momento in cui noi cerchiamo di portare l'annuncio della risurrezione. E anche qua c'è un dettaglio tipico di Matteo molto significativo che il testo esprime in questo modo: essi avvicinatosi gli abbracciarono i piedi e lo adorarono. Cosa significa gli abbracciarono i piedi? Perché le donne compiono questo gesto? Per sottolineare che l'evangelista vuole sottolineare che il Gesù che si fa incontro a loro non è un fantasma, non è uno spirito evanescente, è il Cristo vivo che loro hanno incontrato nel loro cammino, nel ministero pubblico. E questo Cristo vivo, che non è che non è un'allucinazione, che non è un fantasma, diventa avvicinabile, diventa toccabile da parte delle donne che gli abbracciarono i piedi. C'è poi un dettaglio importante in questo incontro, l'incontro con il Signore vivo non si compie senza l'ultimo gesto. Gli abbracciarono i piedi e, dice il testo, lo adorarono. Lo adorarono. Dobbiamo soffermarci bene su questo verbo, perché senza l'adorazione non ci sarebbe l'incontro con il Cristo risorto. Ci sarebbe l'incontro con un uomo. Si sfiorerebbe, è un'esperienza puramente umana. Si passerebbe sopra qualcosa di importante. Grazie invece all'adorazione, queste donne riescono a entrare nel vivo del mistero. Ecco, l'esperienza della Pasqua, cari fratelli, care sorelle, è possibile farla solo nel momento in cui non solo si guarda attraverso i testi che ci vengono proposti dalla liturgia nella tomba vuota, ma nel momento in cui si incontra il Cristo vivo. E come incontriamo il Cristo vivo? Lo incontriamo attraverso un gesto di adorazione. L'adorazione come spazio, momento in cui si interiorizza un mistero. Però anche l'incontro con il Cristo vivo non basta, perché se le donne avessero visto solo la tomba vuota, avessero incontrato solo il Cristo vivo, qualcuno avrebbe potuto dire: ma sì, però la vostra testimonianza non conta più di tanto, non è autorevole, e di fatto era così nel primo secolo, voi avete avuto solo un'allucinazione perché eravate stanche, perché vi siete alzate presto, perché eravate piene di emotività, quindi noi non vi crediamo. Ecco allora la necessità di un terzo momento. E il terzo momento qual è? Il terzo momento è quello a cui le donne sono rimandate sia dall'angelo sia dal Cristo vivo. L'angelo dice alle donne: presto andate a dire ai suoi discepoli che è risorto dai morti, vi precede in Galilea, là lo vedrete. E Gesù conferma questo, perché subito dopo questo gesto di adorazione da parte delle donne, Gesù ribadisce: non abbiate paura, andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea, là mi vedranno. Le donne sono restituite alla comunità. Vedete, nel Vangelo di Matteo le donne sono le uniche che sono rimaste in scena, non c'è nessuno dei discepoli che era rimasto in scena, sono rimaste in scena le donne. Dentro di sé le donne potevano anche aver perso tutta la loro fiducia nella comunità dei dodici che avevano tagliato la corda. Ora, sia l'angelo, sia Gesù vivo, le rimanda a quei discepoli che hanno fallito. E se l'angelo le rimanda ai suoi discepoli, dice andate dai suoi discepoli, Gesù non dice alle donne andate dai miei discepoli, dice alle donne andate ad annunciare ai miei fratelli. Gesù li chiama fratelli, facendo capire a quelle donne che lui non ha bocciato nessuno. I suoi discepoli saranno pur stati fragili, saranno pur state persone che lo hanno rinnegato, lo hanno tradito, lo hanno abbandonato, ma nel suo cuore loro rimangono fratelli. E quell'esperienza che da un punto di vista puramente umano uno potrebbe giudicare esclusivamente come un'esperienza negativa, per Gesù è la pedagogia che conduce al secondo sì, al sì reale della loro vocazione. Ecco che li rimanda proprio dal luogo in cui tutto è partito. Quindi non sono bocciati, ma possono ricominciare da capo. E le donne hanno bisogno anche dei discepoli per fare Pasqua. La Pasqua non è una condivisione tra perfetti, non è una condivisione tra puri. La Pasqua è un mettersi in cammino insieme alla sequela di un maestro che ci viene incontro e che sana le nostre ferite. Ecco, quindi le donne che ci vengono presentate come le prime messaggere della risurrezione sono invitate a vivere queste tre esperienze: lo sguardo sulla tomba vuota, lo sguardo sul Cristo risorto che diventa uno sguardo adorante, lo sguardo e il ritorno nella comunità dei discepoli, riconoscendo in questi discepoli non solo i discepoli di Gesù, ma i suoi fratelli, quelli a cui Gesù dà nuovamente la possibilità di riprendere il cammino dell'annuncio e della sequela. Ecco, accanto a questo primo gruppo di protagoniste che vivono l'esperienza di questo grande Shabbat iniziale che abbiamo illustrato prima, c'è poi un secondo gruppo di protagonisti, che è quello delle guardie. Prima però di continuare nella nostra riflessione, lasciamo ancora un breve stacco musicale in modo che potete rileggere questi versetti. Perché ve li faccio rileggere mentre passo da una spiegazione all'altra? Perché anche questo aiuta a interiorizzare quello che è stato detto e magari suscita già in voi quelle domande con cui poi potremo arricchire la nostra conversazione. Quindi lasciamo un altro breve stacco musicale, dopodiché continueremo nella riflessione. Allora, continuiamo con il nostro racconto, leggendo insieme adesso i versetti da 11 a 15. Mentre stavano andando, alcune guardie arrivate in città annunciarono ai capi dei sacerdoti tutto quanto era accaduto. Riunitisi con gli anziani e tenuto consiglio, i capi dei sacerdoti diedero una buona somma di denaro ai soldati, dicendo: «Dite, i suoi discepoli sono venuti di notte e l'hanno rubato mentre noi dormivamo. Se il governatore dovesse venirlo a sapere, lo persuaderemo e vi libereremo da ogni preoccupazione». Questi, presi i denari, agirono secondo le istruzioni ricevute e diffusero questa diceria presso i giudei fino al giorno d'oggi. Arriviamo quindi al secondo gruppo di protagonisti. Il secondo gruppo di protagonisti è quello delle guardie. Ecco, in questi giorni pasquali mi sono un po' soffermato sulla figura delle guardie sotto lo stimolo di un augurio che mi è arrivato, l'augurio di un mio collega biblista, Don Franco Manzi, che negli auguri faceva una piccola riflessione sulle guardie, no? E così mi sono sentito un po' provocato ad approfondire questa figura, a cui sostanzialmente non avevo fatto caso nelle Pasque precedenti, però ho proprio notato che le guardie sono dei protagonisti molto importanti nel racconto di Matteo e che giocano un ruolo chiave. Se ricordate, queste guardie erano entrate in scena subito dopo la morte di Gesù. Il testo, già al capitolo 27, era molto esplicito. Se noi andiamo a riprendere i versetti dal 62 al 66, Matteo spiega bene qual era il contesto in cui sono entrate in scena. Diceva: il giorno seguente, dopo quindi la morte di Gesù, cioè quello dopo la parasceve, i capi dei sacerdoti, i farisei, si riunirono presso Pilato, dicendo: «Signore, ci siamo ricordati che quell'impostore disse quando era ancora vivo: dopo tre giorni risorgerò. Ordina dunque di controllare il sepolcro fino al terzo giorno, perché non vengano i suoi discepoli, lo rubino e poi dicano al popolo: è risorto dai morti. Così quest'ultima impostura sarebbe peggiore della prima». Pilato disse loro: «Avete una guardia, controllate il sepolcro come meglio credete». Partiti, misero le guardie a controllare il sepolcro, dopo aver sigillato la pietra. Quindi notate, il giorno dopo la morte di Gesù, c'era subito, Matteo è l'unico evangelista che mette in scena queste guardie. E coloro che entrano in scena e che pretendono le guardie a custodia del sepolcro sono i farisei. Farisei che evocano un brano dell'insegnamento di Gesù, quando aveva detto: dopo tre giorni risorgerò. Ecco, Gesù aveva detto questa espressione nel momento in cui i farisei si erano fatti avanti chiedendo un segno. E Gesù aveva risposto dicendo: non vi sarà dato nessun segno se non il segno di Giona, e in quel contesto aveva evocato proprio la risurrezione al terzo giorno. Ora, qua è interessante riagganciarci anche all'esperienza di Giona, perché nella tradizione ebraica, probabilmente già diffusa nel primo secolo, veniva narrato proprio il Midrash di Giona, che nel momento in cui viene inghiottito dal pesce non si limita a pregare, come dice il testo di Giona al capitolo 2, ma stando al Midrash, in quei tre giorni in cui restò nel ventre del pesce, Giona sarebbe stato portato nello Sheol, nella Geenna, e avrebbe visto il Leviatano, cioè questo mostro marino, che voleva mangiare il pesce grosso che ospitava Giona. E Giona, stando a questo Midrash, avrebbe promesso al pesce che lo ospitava che il Leviatano sarebbe stato ucciso e sarebbe poi stato cucinato per il banchetto del Messia che un giorno sarebbe tornato. Quindi Il segno di Giona e il collegamento con il Midrash è facile da collegare al destino di Gesù, cioè il momento in cui Gesù viene messo nel sepolcro coincide con la discesa negli inferi. La discesa negli inferi con il momento in cui la morte viene vinta, cioè questo Leviatano viene ucciso. Ora, questo primo giorno dopo il sabato, notiamo che praticamente dai capi dei sacerdoti, da coloro ecco, da cui vanno le guardie, sono proprio quelli che li hanno messi a custodire la tomba. E anche qua le guardie da Matteo vengono descritte con alcune caratteristiche ben precise che meritano di essere sottolineate. Prima di tutto va detto che le guardie non fanno un'esperienza diversa da quella delle donne, come le donne vedono l'angelo che scende dal cielo come folgore, partecipano al terremoto, sono riempiti di paura, come le donne. Sono scossi dall'esperienza che hanno vissuto come le donne, corrono ad annunciare quello che hanno sentito come le donne. I frutti però sono totalmente diversi. Perché sono totalmente diversi? Perché le guardie sono vittime, di tre elementi di prigionia, di tre esperienze di prigionia. Il primo elemento di prigionia viene subito enunciato nel momento in cui c'è la scena dell'angelo. Al versetto 4 ci veniva detto che per la paura di lui le guardie furono scosse e rimasero come morte. Al posto di, come dire, essere scosse interiormente, essere, come dire, spinte a un cambiamento, a una messa in discussione, le guardie si pietrificano, rimangono, viene proprio utilizzato il verbo di chi si fissa nella propria posizione, rimangono come morte. Le guardie sono custodi di un'esperienza morta, sono andate lì a sigillare la tomba. La pietra che chiudeva il sepolcro l'hanno sigillata, hanno messo lo sfragis, viene proprio utilizzato anche questo verbo in greco per dire il sigillo della tomba di Gesù, sono andate a custodire un morto e per loro l'esperienza della risurrezione resta ancora un'esperienza di morte, non si lasciano irrompere dalla vita. E questo, guardate, è un rischio a cui tutti siamo esposti. Si possono celebrare tutte le Pasque di questo mondo, però anche noi possiamo correre il rischio di rimanere come morti. Poi portano l'annuncio, quindi vanno dai capi dei sacerdoti ad annunciare tutto quello che era accaduto, alcune guardie, le altre restano probabilmente sul posto a custodire una tomba oramai rimasta vuota. E lì, riunitisi con gli anziani e tenuto consiglio, cosa succede? Succede che le guardie sono invitate a tacere in cambio di denaro. Ed ecco tornare in scena il tema del denaro. Il tema del denaro è un tema che è particolarmente caro all'Evangelista Matteo, perché torna in scena più volte. Ora, alcuni dicono che questa sensibilità da parte dell'Evangelista al tema del denaro sia una sensibilità che probabilmente gli viene dal suo passato. Se stiamo alla tradizione, l'Evangelista corrisponde al famoso pubblicano convertito e il pubblicano, qual era il compito del pubblicano? Il compito del pubblicano era il venduto per denaro al potere occupante. Se Matteo si era convertito da questo, gli era comunque rimasto nel cuore quanto il denaro aveva influito su di lui. E questo si ripercuote nel racconto, per cui c'è un'attenzione particolare a Giuda che per denaro tradisce Gesù, ed ora c'è un'attenzione particolare alle guardie che per denaro tradiscono il risorto, perché in fondo si tratta di questo. in cambio di denaro loro tradiscono quella che è la verità dei fatti, vendono e barattano la verità in cambio dei denari. E non solo, ma portano in giro un messaggio fasullo. Curioso, erano state messe in scena, scelte, perché non diffondessero un'impostura, l'impostura sarebbe stato quello che i discepoli potevano inventarsi sul loro maestro, ed ora vengono prezzolati per diffondere un'impostura. Quindi notiamo che contemporaneamente si diffondono due annunci, l'annuncio vero della risurrezione portato dalle donne e i discepoli, l'annuncio falso del trafugamento del corpo di Gesù portato su pagamento da parte delle guardie. Quindi vittime prima di tutto di una logica di morte, secondo vittime del denaro. Terzo elemento, ci viene detto, questi presi i denari agirono secondo le istruzioni ricevute e diffusero questa diceria presso i giudei fino ad oggi. Terzo elemento di cui sono vittima è sono vittime del sistema, si comportano come burattini, hanno ricevuto un mandato, lo assolvono, sono obbedienti senza far emergere ecco quella che è la loro personalità, sono burattini del sistema, il potere ha preso su di loro e li rende conformi a quello che loro che il potere vuole che esse siano, diversamente dalla logica del risorto, perché se voi avete notato, il risorto mette in scena le donne per quello che le donne sono, le invita a non avere paura, le invita a andare dei discepoli, rispetta i discepoli per quelli che loro sono, con le loro fragilità, con i loro rinnegamenti, abbandoni, tradimenti, li chiama miei fratelli e ognuno porterà in scena la propria personalità, Pietro con la sua personalità, Giacomo e Giovanni figli del tuono con la loro personalità, ognuno porta in scena quello che è, le guardie invece no. Tutte uguali, tutte con lo stesso annuncio, tutte vittime dello stesso potere, inquadrate all'interno del potere. La loro personalità è, per certi aspetti, svuotata. E allora notiamo quello che produce una logica del risorto e quello che produce invece la logica del potere dominante del tempo. Ecco. E in questi, al termine di questi 15 versetti, è ovvio che l'Evangelista Matteo rilancia al lettore la sua sfida. Il suo racconto, come abbiamo visto, è proprio articolato molto bene. Cioè, la prima parte abbiamo visto l'annuncio della risurrezione sullo sfondo del sabato, come se il giorno della risurrezione, il primo giorno della settimana, è realmente il compimento del grande Shabbat di Dio. Poi il secondo momento dedicato alle donne come coloro che invitano a entrare nell'esperienza della Pasqua attraverso la triplice esperienza, l'esperienza della tomba vuota, l'incontro con il risorto, la restituzione alla comunità dei discepoli. E infine questa terza parte dedicata alle guardie che rimangono invece imbrigliate, dentro di loro c'è come un disangelo, non un evangelo, una cattiva notizia che resta imbrigliata in una logica di morte, in una logica di denaro, in una logica di potere. Sono in un certo senso le tre tentazioni dell'inizio del ministero pubblico di Gesù che continuano ancora a legare l'uomo. E la domanda che Matteo rivolge ai suoi lettori in modo indiretto è questa: chi siamo noi? Chi sono io? Uno che fa esperienza della Pasqua come le donne, vivendo la Pasqua come un momento di incontro con la tomba vuota, con il Gesù vivo, con la comunità? O uno invece che resta, in un certo senso, legato come le guardie al sepolcro, che sì, ha celebrato Pasqua ma resta custodia di un'esperienza morta. Vedete, la nostra tradizione, la tradizione cristiana che noi abbiamo ricevuto attraverso il battesimo da una comunità, dai genitori, dai testimoni della fede, per essere una tradizione pasquale deve essere viva, non basta riceverla nel battesimo, va tenuta viva. E allora Matteo provoca la sua comunità dicendo: ma l'esperienza pasquale che tu porti dentro di te è un'esperienza viva o un'esperienza di morte, un'esperienza ancora sigillata? E soprattutto è qualcosa che sa cambiare le priorità, oppure nella tua vita la priorità è ancora decisa dal denaro, dal potere, ciò che ti imbriglia? In tutto risuona in modo forte la parola sia degli angeli sia di Gesù: non abbiate paura, andate a dire ai miei discepoli, andate a dire ai miei fratelli di andare in Galilea, là mi vedranno. Ecco, cari ascoltatori, questi sono i 15 versetti con cui il Vangelo di Matteo racconta l'esperienza della risurrezione, versetti che ci sono stati proposti anche dalla liturgia quest'oggi, in questo lunedì dell'Angelo. Lasciamo ora spazio alle vostre domande, mentre attendiamo i vostri interventi, i vostri quesiti, lasciamo un breve stacco musicale. Grazie a ciascuno di voi. Pronto, buonasera, con chi parlo? Sì, buonasera, io sono Anita e chiamo da Roma. E la domanda che le volevo fare è questa: come vengono spiegate le differenze tra i vari evangelisti nella narrazione dell'episodio della resurrezione? Cioè, per esempio, solo Matteo parla delle donne che assistono all'angelo che ribalta la pietra, mentre mi pare che negli altri Vangeli le donne vedono la tomba già aperta e l'angelo lo trovano dentro. Cioè, ci sono delle differenze e vorrei che mi spiegaste come vengono appunto spiegate queste differenze tra i vari evangelisti. Certo. Allora, la ringrazio, signora Anita, per questa domanda. Ovviamente con questa domanda la nostra ascoltatrice tocca un aspetto molto importante che non riguarda solo i racconti della risurrezione, ma un pochino l'intera narrazione dei Vangeli. Allora, noi dobbiamo tenere presente una cosa: quando gli evangelisti scrivono, gli evangelisti partono da prospettive diverse. C'è una spiegazione, molto terra a terra, che può aiutare a dare un attimino una prima base alla spiegazione, ed è questa. Immaginiamo un fatto qualsiasi, anche un fatto di cronaca, a cui assistono quattro persone diverse. Se voi andate a chiedere a queste quattro persone cosa è successo, queste quattro persone vi racconteranno quello che è successo, ognuna però enfatizzando, sottolineando un aspetto che magari sfugge a un altro. Perché? Perché queste quattro persone vengono da esperienze diverse. Quindi il primo elemento più semplice, più banale per dare una spiegazione alla nostra ascoltatrice, ma alla domanda che ci portiamo dentro noi, è questo: i quattro evangelisti portano dentro di sé un'esperienza diversa, però questo sarebbe troppo banale, sarebbe troppo poco. I quattro evangelisti non solo hanno dentro di sé un'esperienza diversa, ma si rivolgono anche a comunità diverse. Quando gli evangelisti scrivono, non hanno come obiettivo solo quello di raccogliere il nucleo più importante degli insegnamenti di Gesù per comunicarlo agli altri, ma hanno anche in mente dei precisi destinatari a cui parlano. Matteo, ad esempio, ha davanti a sé una comunità che proviene dal giudaismo, quindi c'è da parte di Matteo tutta un'attenzione particolare all'elemento della tradizione giudaica, al dato giudaico. Ecco perché nella sua narrazione ci sono, tutta una serie di richiami all'annuncio antico testamentario, alle scritture antico testamentarie, che permettono di sottolineare la continuità della storia della salvezza nel Primo e nel Nuovo Testamento. Diversa invece è la prospettiva, ad esempio, di un Marco, di un Luca, perché entrambi si rivolgono a una comunità diversa davanti a sé. C'è poi l'esperienza di discepolato diversa da parte degli evangelisti. Pensiamo ad esempio all'esperienza che annunciavo verso la fine della nostra conversazione di Matteo e del denaro, no? Io sono convinto, posso sbagliare perché ogni biblista, ogni esegeta dà comunque anche qua un'interpretazione anche parziale, personale delle cose, però sono convinto che dietro la narrazione di Matteo c'è l'esperienza personale del pubblicano. Come dietro la narrazione di Marco, ad esempio, c'è l'esperienza del suo fallimento con Paolo, per cui Marco è quello tra gli evangelisti che tratta nel modo peggiore i discepoli, li fa fallire tutti, non ce n'è uno che si salva e sono in continuo errore. Perché? Perché dentro di sé portava l'esperienza lui stesso di un errore che gli era costato lacrime e sangue nell'esperienza con Paolo. E poi c'è un terzo elemento che dobbiamo tenere presente, quindi l'esperienza personale degli evangelisti, la comunità diversa a cui loro si rivolgono, e poi c'è una teologia vera e propria, cioè dietro la narrazione dei quattro Vangeli non abbiamo solo un resoconto ordinato, come direbbe Luca all'inizio nel prologo del suo Vangelo, cioè gli evangelisti non si limitano a raccogliere le notizie su Gesù e a metterle insieme facendo un racconto ordinato. Dentro questo racconto ordinato c'è un Evangelo, c'è un Vangelo con la V maiuscola, c'è una comunicazione di vita che passa attraverso le qualità, le capacità, i limiti stessi dell'evangelista, ma si impregna, potremmo dire, di Spirito Santo. Lo Spirito Santo conferisce a questo racconto una forza vitale che si completa da un evangelista all'altro. Faccio due esempi molto semplici. Pensiamo ad esempio al racconto giovanneo. Nel racconto giovanneo il tema dominante, uno dei temi dominanti, è quello del vedere. Se voi prendete il capitolo della risurrezione dell'evangelista Giovanni, il capitolo 20 di Giovanni, noterete che dal primo versetto fino a tutto il racconto che vede coinvolte il discepolo amato Pietro e Maria di Magdala, più volte torna in scena il vedere. E questo vedere è come scavato, approfondito, si passa da un vedere fisico, cioè il vedere le cose, a un vedere che diventa ragionamento, a un vedere che diventa contemplazione di fede. Ma c'è, come dire, una progressione che è proprio la pedagogia di entrare lentamente in quella che è l'esperienza della risurrezione. Prendete Marco, siamo su tutt'altro orizzonte. Marco non presenta nemmeno l'angelo sulla scena della risurrezione, perché a Marco non è che interessino gli angeli in quel momento. Chi annuncia la risurrezione è un uomo trasfigurato, un giovane trasfigurato, lo stesso giovane che aveva abbandonato Gesù nel momento dell'arresto al Getsemani. Lo ritroviamo sulla scena, rivestito di bianco, non più timoroso, con un annuncio di risurrezione. Qual è l'obiettivo di Marco in quel momento, nel momento in cui dà quel racconto? È quello di sottolineare alla comunità che gli sta di fronte che la Pasqua si incarna nelle persone che ne fanno esperienza. Ed è curioso che nel racconto di Marco le donne sono fallimentari, mancavano solo loro a fallire. Bene, falliscono anche le donne nel racconto di Marco. E il Vangelo si chiude con questo giovane che annuncia e che ha un annuncio da consegnare a qualcuno, e l'unico che lo può recepire, visto che tutti sono usciti di scena, è il lettore, siamo ciascuno di noi. E allora è coerente anche lì nella sua teologia l'Evangelista Marco. Ora, il fatto di avere quattro versioni, quattro visioni, quattro letture diverse del racconto della risurrezione o del racconto di tutto, di tutta la storia di Gesù, del suo ministero pubblico, è la grande ricchezza che la Chiesa ci ha consegnato, perché ci fa capire come fin dall'inizio il Vangelo che noi portiamo, che noi leggiamo, nasce da un'esperienza comunitaria. Veramente siamo fuori da ogni logica di imposizione di un modello unico, ma è l'armonia delle differenze che permette, come dire, di perlustrare, di approfondire tutte le angolature dell'annuncio della risurrezione. Grazie quindi Anita, spero con questo linguaggio, se vuole molto sommario, di avere in qualche modo risposto alla sua domanda. Pronto? Pronto, mi chiamo Paolo, telefono da Cagliari. Volevo sapere una cosa, Gesù a un certo momento dice agli apostoli di vi precedo in Galilea, però poi invece si fa bene da Gerusalemme. E come mai questo? Ce n'è questo, sì. Grazie, sia ben capito padre. Grazie Paolo per la tua domanda. Allora, nel caso del Vangelo di Matteo, notiamo che l'angelo dice alle donne di andare dai discepoli e di dire ai discepoli di andare in Galilea. Quindi Gesù nel Vangelo di Matteo non si presenta ai suoi discepoli direttamente a Gerusalemme, ma li rimanda in Galilea. Alle donne si presenta mentre stanno andando dai discepoli che probabilmente sono radunati nel cenacolo. Dobbiamo però tenere presente una cosa, quando Gesù dice nell'invito che viene fatto alle donne, rileggiamo un attimo il testo, gli undici dice. Allora disse loro Gesù, non abbiate paura, andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea, là mi vedranno. Ecco, non è, la Galilea non è solo lo spazio del vedere Gesù in modo, come dire, fisico, concreto, ma è lo spazio in cui tutta l'esperienza del discepolato deve ricominciare. Cioè, l'esperienza che attende i discepoli come esperienza pasquale è quello di ripercorrere le vie della sequela e del discepolato in modo nuovo, riconoscendo in quella sequela e in quel discepolato l'azione del Cristo risorto. Negli anni del ministero pubblico di Gesù, in fondo i discepoli cosa hanno fatto? Hanno seguito un grande uomo riconoscendolo come maestro, ma non riconoscendolo come il figlio di Dio, l'incarnazione di Dio sulla terra. Ora devono ripercorrere tutto quello, ripercorrere tutta questa esperienza in un orizzonte nuovo. Allora lì, ripercorrendo questa esperienza in un orizzonte nuovo, vedranno quello che è il Vangelo di Gesù. Ovviamente nel momento in cui si pone in atto questa logica, Gesù però precede e quindi precede prima di tutto le donne andando incontro alle donne e precederà a un certo punto gli stessi discepoli, perché Gesù si farà, come dire, presente anche a loro, dando a loro ogni autorità in cielo e in terra e rinnovando la missione. Quello che è significativo è che nel momento in cui Gesù si fa incontro ai suoi discepoli e li manda in missione, fa coincidere per i discepoli questa esperienza. I discepoli rivivono l'esperienza degli anni di discepolato e nello stesso tempo questa esperienza rivissuta, riletta alla luce della risurrezione, diventa esperienza di annuncio agli altri. Quindi in questo senso, a mio avviso, possiamo rileggere e rispondere a questo suo interrogativo. Grazie Paolo per la tua domanda. Pronto? Pronto? Buonasera. Sono Paolo e telefono da Alessandria. Mi dica Paolo. Volevo chiederle una cosa, toglievo una curiosità, no? Gesù Cristo è risorto dopo 3 giorni, ma come mai se muore il venerdì alle 3 e poi al sabato sera è già risorge e 3 giorni non sono passati? Questa è una curiosità che mi ha posto anche mio nipote, per quello sì. Che le voglio chiedere questo. Allora, sento l'ascolto per radio, Buonasera, buona Pasqua. Grazie Paolo. Anche in questo caso la risposta noi la possiamo dare sulla base, dobbiamo metterci un attimo nell'orizzonte del modo di calcolare le giornate nel primo secolo, soprattutto non solo nel primo secolo, perché ancora oggi nella tradizione ebraica il modo di vedere la giornata è diverso dal nostro. Noi in genere calcoliamo un giorno dalle 24 dalle 00 alle 24. Per noi un giorno inizia nel cuore della notte e termina nel cuore della notte. Nella tradizione ebraica invece non è così. Il giorno si calcola dal tramonto al giorno successivo. Quindi praticamente è un modo diverso anche di vedere la logica delle cose. Si può dire che nella tradizione ebraica la vita è colta come un passaggio dalle tenebre alla luce, un po' come la creazione, si inizia dalle tenebre e si va verso la luce, quindi il modo di calcolare il giorno è così, dalle tenebre del tramonto fino alla luce del giorno successivo, no? Fino alla luce pomeridiana. Nella nostra tradizione invece il calcolo del giorno va dalla notte alla notte, quindi dietro c'è anche un modo diverso di fare. Se noi teniamo presente questo modo di calcolare il giorno, i 3 giorni ci sono, perché Gesù muore alle 3 del pomeriggio, quindi è un giorno quel venerdì. Poi c'è il sabato, che è il secondo giorno, il sabato inizia dalla sera del venerdì, dal tramonto del venerdì fino a tutto il pomeriggio del sabato. Ora, Gesù risorge, stando alla tradizione di Marco, Luca e Giovanni, il primo giorno dopo il sabato, stando alla tradizione di Matteo, nel passaggio dal sabato al primo giorno dopo il sabato. Quindi siamo comunque sempre nel terzo giorno, quindi in tal senso noi possiamo parlare di 3 giorni, però dobbiamo tenere presente il calcolo, cioè il modo di calcolare le giornate della tradizione ebraica del primo secolo e di oggi. Allora lì siamo perfettamente nel terzo giorno. La menzione del terzo giorno attinge ovviamente anche alla tradizione antico-testamentaria. Nella tradizione antico-testamentaria i profeti, già parlando dell'arrivo escatologico del Messia, avevano parlato della vita che torna a vincere la morte nel terzo giorno, e poi c'è il famoso segno di Giona che abbiamo menzionato nella nostra conversazione. Giona restò 3 giorni e 3 notti nel ventre del pesce. Lì il calcolo è ancora diverso, perché sono 3 giorni e 3 notti complete, mentre la risurrezione di Gesù avviene il terzo giorno. Quindi questo è un pochino il modo in cui viene spiegata la risurrezione di Gesù il terzo giorno. Grazie Paolo per il suo interrogativo. Pronto? Pronto, buonasera Don Giacomo, sono Maria Rosaria Colabella da Foggia. Innanzitutto auguri per la Santa Pasqua. Grazie. Volevo farle 2 domande, una sulle donne e l'altra sulle guardie. Nella prima domanda notiamo come Gesù, con una finissima analisi psicologica e spirituale, dice alle donne di non avere paura, poi le manda ad annunciare. E mi sono chiesta come mai Gesù non è apparso direttamente ai discepoli che sono stati tanto vicini a lui e che hanno ricevuto da Gesù il ministero sacerdotale. E credo che con questo chiarimento Gesù ci fa capire come alla donna sia dato un altro compito diverso, come annunciatrice della parola di Cristo, mentre il sacerdozio è proprio dell'uomo, e quindi rimanendo proprio ancorati a quelle che sono state le istituzioni di Gesù riguardo ai compiti di amministrazione e di gestione della Chiesa. E la seconda domanda invece è quella sulle guardie. Le guardie che dovevano portare anche ad un discorso di falsificazione della verità. Nello stesso momento però, mentre loro dicono che Gesù è stato rubato dai discepoli, confermano di essere stati addormentati, cioè di dormire. Quindi uno che dorme come può vedere? Allora padre, volevo chiedere se ci sono degli errori in questa espressione che ho presentato. Certo, certo. Allora, grazie mille Maria Vittoria per queste domande, perché sono proprio queste le domande che ci permettono, di scavare ulteriormente, entrare nel dettaglio del nostro testo. Perché Gesù ha scelto le donne? Ma mi sembra, non è facile rispondere a questa domanda, perché nelle sue scelte Gesù è sempre stato inedito nel fare le scelte, cioè non ha seguito la logica delle priorità, mai. E lo stesso lo possiamo dire per le pagine dell'Antico Testamento. La logica di Dio è molto diversa dalla logica umana. Noi andiamo secondo i criteri sociali. Dio non è mai andato secondo i criteri sociali. E tutti quelli che sono stati i grandi scelti nella storia della salvezza per portare avanti il suo disegno di salvezza sono certamente state delle persone che l'uomo non avrebbe scelto. Persino Israele, nel libro del Deuteronomio, quando riflette sul fatto di essere lui il depositario, si ricorda e invita anche le generazioni successive a ricordare che non è stato scelto perché era un popolo forte, non è stato scelto perché era un popolo intelligente, ma è stato scelto perché era il popolo più povero, più piccolo e in questo senso più amato da Dio. Ora, Gesù affida paradossalmente il ministero dell'annuncio della risurrezione a testimoni non credibili, perché la testimonianza delle donne non era credibile, ma non è che affida solo a loro. La loro testimonianza fa parte di una serie di testimonianze che rendono unica, piena, completa la testimonianza della comunità. Quello che a mio avviso è importante tenere presente nella tradizione dei Vangeli è proprio questo, è sempre la testimonianza di una comunità, e all'interno di questa comunità quelli che portano l'annuncio della risurrezione sono tutti i componenti, non solo i dodici. Molto significativo al riguardo ad esempio è il capitolo 15 della prima lettera ai Corinzi, dove Paolo, riportando il credo più antico, fa riferimento alla tradizione che lui ha ricevuto e ricorda che è risorto, è apparso non solo ai 12, ma è apparso a più di 500 fratelli, è apparso a Giacomo di Gerusalemme e ultimo fra tutti, apparso anche a lui come a un aborto. Poi ecco, lei nella sua domanda faceva alcuni accenni al discorso dei discepoli, sacerdoti, donne non sacerdoti, però attenzione perché noi non possiamo portare queste categorie sul palcoscenico della narrazione dei Vangeli, cioè questi sono elementi che entrano in scena dopo, nella tradizione neotestamentaria e cristiana, più tardi, non certamente nel momento in cui avviene ecco, il momento della risurrezione di Gesù. Nel momento della risurrezione di Gesù non ci sono sacerdoti tra i discepoli, nessuno ha ricevuto l'ordine come noi lo intendiamo oggi, capisce? È quello. E poi la storia, la tradizione, lo sviluppo dei ministeri all'interno della comunità cristiana, ma sono fasi successive. Noi dobbiamo stare attenti a proiettare ciò che viene dopo sulle pagine del Nuovo Testamento, potrebbe essere rischioso. Secondo discorso, la seconda domanda riguardava le guardie che dormono. Ora, perché le guardie sottolineano poi il discorso che mentre noi dormivamo è successo questo, ma devono dire così per forza, perché se loro dicono guardate è successo nel momento in cui noi eravamo svegli e non siamo stati capaci di difendere di assolvere al nostro incarico, rischiavano grosso, non è che era qualcosa, il compito delle guardie era un compito ingrato, se uno non si rivelava all'altezza di compiere il suo dovere, le punizioni potevano essere molto dure. Ora si tratta delle guardie, dei capi dei sacerdoti e delle autorità religiose, quindi magari potevano avere anche delle pene un pochino meno dure, però ecco, l'avere come attenuante quella del sonno era perlomeno ecco, un attenuante credibile, ma attenzione, viene anche specificato da parte delle autorità religiose, se il governatore dovesse venirlo a sapere, lo persuaderemo e vi libereremo da ogni preoccupazione, cioè è evidente che queste guardie sì, obbediscono al comando, vanno a diffondere una falsità che li mette in cattiva luce, però sono un pochino preoccupate anche del loro destino e hanno bisogno di una tutela ulteriore attorno a sé. Grazie Maria Vittoria per queste sue due domande. Pronto? Buonasera. Pronto, buonasera. Buonasera. Mi dica con chi parlo. Chiamo da Milano. Sì. Senta, io volevo, premesso che ho la grazia della sede, ho passato un bellissimo triduo, però c'è un punto che mi ha sempre incuriosito e adesso voglio chiederlo, anche se non è tanto importante, però insomma, vabbè, data la sua gentilezza. Cioè, io mi domando, il fatto che Gesù mangi dopo che è risorto, perché se questa cosa mi lascia un po' così perplessa, più pena, però insomma dico, ma dato che mangiare è un po' un fatto coatto, un fatto che ci obbliga ad uccidere, insomma, no? Sia gli animali che le piante, perché anche chi è vegetariano comunque mangia esseri che sono comunque stati estirpati e tagliati, uccisi. Quindi è una necessità, ma speriamo che nel paradiso, se Dio vorrà metterci, non ci sia questa necessità di nutrirsi e poi avere anche dei rifiuti, eccetera, insomma tutto quello che comporta il nutrimento. E questa è una prima domanda. Poi c'era una mia riflessione sul fatto che il mangiare è veramente diventato una cosa ossessiva. Cioè, nei paesi nostri, dove c'è civiltà, tra virgolette, io frequentando ultimamente delle persone qui a Milano, eccetera, mi accorgo che la gente si ammazza di mangiare, cioè mangiano veramente fino allo sfinimento, buttando via un terzo di quel che comprano, perché i frigoriferi sono strapieni, la roba va male, eccetera. Quindi diciamo, io approfitto anche di questo per dire: siamo sobri, mangiamo meno, facciamo un po' di carità, mangiamo come Gesù. E poi speriamo in paradiso di non doverci mangiare, perché così almeno siamo in pace con tutte le creature. Grazie Alessandra per questo tuo intervento, per queste tue domande. Allora, vediamo subito di rispondere a quanto tu hai chiesto. Mi permetterai anche magari di fare un pochino di ironia su alcune cose, no? Cominciamo col tema del mangiare. La Pasqua è anche occasione non solo di celebrare con il Signore, ma anche di celebrare tra fratelli e sorelle all'interno delle comunità, anche le comunità religiose. Il pranzo pasquale è sempre un pranzo più ricco e che in genere è anche atteso anche nelle famiglie. Il momento della Pasqua è anche un momento del banchetto, persino nella tradizione ebraica è un banchetto importante dove vengono invitati e ospitati anche degli stranieri. Pensate, quando io ero a Gerusalemme a studiare avevo amici ebrei, no? E è capitato che in occasione della Pasqua venissi invitato io come straniero, no? Come un ospite straniero, a parte che è un'esperienza molto bella, ma è il segno proprio della condivisione di un momento di gioia che si esprime nel pasto. Ecco, io non so se in paradiso mangeremo o berremo, probabilmente no, però se lo escludiamo in partenza probabilmente molte persone non ci vogliono venire. Scherzo ovviamente, no? Ma è significativo che nella tradizione biblica dell'Antico Testamento il paradiso viene comunque visto come un luogo in cui ci saranno cibi succulenti, scorre latte e miele, cioè il compimento della terra promessa. E anche quello che è il luogo dell'Eden è il luogo dove la creazione risplende anche per quello che può offrire all'uomo. Fatta questa parentesi, la invito lei, anche gli ascoltatori, a stare attenti anche qua, ad adottare il nostro modo, le nostre categorie di riflessione sulle cose, non so, sui verbi, su alcune immagini, sul mangiare, il modo in cui noi vediamo il mangiare, non era certamente il modo in cui il mangiare era vissuto nel primo secolo. E non è sicuramente questo il modo in cui il significato che ha il mangiare nella teologia degli evangelisti. Quando gli evangelisti, e faccio riferimento soprattutto a Giovanni, che fa mangiare al risorto tanto di pesce arrostito sul lago di Tiberiade, il mangiare ha un significato teologico duplice. Il primo è quello di attestare che la risurrezione non ha a che fare non porta in vita dei corpi fasulli. Noi crediamo nella risurrezione dei corpi. Gesù non è uno spirito vivo e basta. Gesù è risorto con il suo corpo, un corpo che può essere toccato. Metti qua la tua mano, metti il dito nel mio costato, quindi è vivo in carne ed ossa. Gesù si fa ospitare dai discepoli di Emmaus, lo riconoscono allo spezzare del pane. È un Gesù che cammina a fianco dei suoi, un Gesù che, l'abbiamo ascoltato stasera, si lascia toccare, avvicinare, abbracciare i piedi, cioè la sua corporeità che porta i segni della passione è una corporeità trasfigurata, ma è una corporeità. Tanto vero che è rimasto vivo in mezzo a noi sotto ancora il segno della corporeità. Che cos'è l'Eucaristia? L'Eucaristia è il corpo e il sangue di Cristo tangibili, che si fanno un'unica cosa con il nostro corpo e il nostro sangue. Quindi questo è il primo significato teologico del tema del mangiare. Secondo elemento, secondo significato teologico del tema del mangiare è il tessere comunione, l'elemento della comunionalità. Nel primo secolo il mangiare non era solo partecipare a un pranzo, non era solo abbuffarsi di qualcosa, assolutamente no. Il sedere a mensa con qualcuno significava entrare in alleanza con quella persona. Il fatto che il risorto mangi con i suoi è segno che ci fa entrare nella sua vita di risorti, stringe la sua alleanza con noi, ed è un'alleanza diversa da quando era maestro. Quando era maestro, i suoi discepoli che mangiavano con lui, vivevano con lui, concepivano, vedevano, sentivano questa partecipazione di vita come la partecipazione di una sapienza, di uno stile di vita che il maestro dava ai suoi. Quando il risorto sta con loro per 40 giorni, ci dice l'Evangelista Luca, prima di salire al Padre, di ascendere al Padre, sicuramente mangia con loro, dorme con loro, ma da risorto. E questa modalità di vita del risorto con la comunità dei dodici è diversa da quella precedente, perché è l'alleanza del risorto che condivide questo suo stato di vita con i suoi. E allora questo mangiare diventa un qualcosa che dà enorme dignità a coloro che sono coinvolti, quindi è qualcosa di estremamente luminoso. Poi all'interno di questo ci stanno ovviamente anche i richiami, le sottolineature che lei ha fatto nei suoi interventi, però attenzione, non portiamo le nostre categorie sul mangiare al primo secolo. Nei Vangeli il tema del cibo, del mangiare e dello stare a mensa con Gesù ha una portata teologica che sfugge ad ogni nostro lettura imbrigliata nell'oggi. Grazie Alessandra per questa sua domanda. Ecco, ascoltiamo la nostra ultima domanda. Con chi parlo? E sono Cesarina. Buonasera padre, volevo chiedere un favore. Leggendo il Vangelo di Luca 24-44, non capisco quando Gesù dice si compiono tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè. Ecco, non ho capito. La ringrazio, padre. Sì, allora, 24-44 lei mi diceva. Poi disse, sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi. Bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. Grazie signora Cesarina per questa domanda, perché ci permette di toccare un altro aspetto importantissimo. E qua tengo a sottolinearlo, è importantissimo. Il risorto tiene a precisare con questo versetto, ma questo versetto lo troviamo anche in altri passaggi, nel momento dei discepoli di Emmaus ad esempio, o nella catechesi di Paolo in 1 Corinzi 15, quando dice che Gesù è patito e morto secondo le scritture, è risorto secondo le scritture. Cosa si intende questo secondo le scritture? Le scritture che aveva Paolo, le scritture che avevano i discepoli di Emmaus, non sono certamente il Nuovo Testamento, che non era ancora stato raccolto. Le scritture che avevano loro sono quello che dice Luca in questo versetto. La legge di Mosè, vale a dire il Pentateuco, i profeti, vale a dire gli scritti storici e profetici, i salmi, gli scritti sapienziali, cioè i tre grandi blocchi, se vogliamo, dell'antico, di quello che noi chiamiamo l'Antico Testamento, il Primo Testamento, Torah, Nebim, Ketubim, cioè Pentateuco, profeti, sapienziali, è ciò che già in nuce contiene il mistero della vita, morte e risurrezione di Gesù. Noi non possiamo cogliere in profondità quello che Gesù è, quello che Gesù fa, senza entrare in dialogo con le scritture. Le scritture, intese come pienezza dell'Antico e del Nuovo Testamento, sono una delle più importanti porte di accesso al mistero di Cristo. Quindi celebrare la Pasqua, cara signora Cesarina, cari ascoltatori, significa riscoprire il tesoro delle scritture, non accontentarci di portare con noi solo il Vangelo. Certo, il Vangelo, per carità, lo dobbiamo sempre portare con noi, come ci ha invitato a fare Papa Francesco, per vivere una vita conforme al Vangelo. Il Vangelo piccolino lo possiamo sempre portare nella tasca, ma i cristiani sono gli uomini della parola, nella sua completezza, dall'Antico al Nuovo Testamento. La Bibbia è ciò che ci forma, ci plasma, ci educa. Ovviamente è una delle porte di accesso, non è l'unica. Sappiamo che per l'esperienza cristiana accanto alla parola c'è l'esperienza sacramentale che rende, come dire, tangibile quello che dicevamo prima, no? Il corpo di Cristo, la partecipazione all'Eucaristia, fonte sorgente, fonte culmine della vita cristiana, e poi la comunità, l'esperienza della comunità. Ecco, grazie Cesarina per questa tua domanda che ci ha permesso di toccare un'altra grande porta dell'esperienza pasquale. Quindi chiudiamo ringraziando quanti di voi sono intervenuti con le loro domande, da Anita da Roma, Paolo da Cagliari, Paolo da Alessandria, Maria Vittoria da Foggia, Alessandra di Milano e poi l'ultimo intervento, l'intervento di Cesarina. Vi saluto tutti con una luminosa benedizione pasquale e ricordiamoci vicendevolmente allo Spirito, perché in questi giorni del grande ottavario di Pasqua ci aiuti proprio a entrare nel cuore del mistero e a non essere come le guardie, custodi di un sepolcro vuoto, ma essere come le donne, persone che incontrano il Cristo vivo, lo abbracciano e sanno adorarlo per interiorizzare il mistero. Buona Pasqua a tutti. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.